Uioia. No, prega, se ne male, intanto non reagisce. Sì. Era bruva che era Sindria. Però adesso mi la botto. Alla fine finiamo sempre a parlare di cose sconce, di piselli, di fave. Quello sei tu, perché allora, non hai educato, perché tua madre, io sono convinto che l'educazione te l'ha data, però sei tu che non l'hai presa. Eia, sì, è vero Natalia, sì Gianni. Chi è questo che parla? Ma è propagazione? Sì, propagazione. E io sto scendo con pochi fatti. Sto scendo con tre fatti. Sì, ma infatti si nota la distanza, cioè Natalino con due fatti tipo 9,25, Gianni sarà 9,20 o meno. Non sto guardando lo smittere, non sto proprio guardando. Ah, esce bene lo stesso, vero? Si sente bene lo stesso. Te l'ho detto che in città con l'antenna sul tetto bastano 100 milliwatt. Avevo fatto la prova, ti ricordi? Avevo messo un watt più quel riduttore ZG, no? Che riduce al 10%, te la riduce. E che avevo roba di 100, massimo 150 milliwatt, e mi copiavi tipo 8,5-9, o anche 8 di segnale, però arrivavo bene. Se con 2 watt Giulia è arrivato di propagazione, non so dove, figurati. 2 watt sono anche troppi quelli che sto usando io, per città va benissimo. Poi in Natale tutta la magia la fa la propagazione. Anzi, ti dirò di più. Voi sapete come la banda, com'è o com'era la banda CB giapponese? No. Allora, degli apparati assurdi, apparati da tavolino, portatili però da tavolino, sembravano delle autoradio, poi vi manderò delle foto. Allora, loro avevano, come il PMR nostro, avevano 8 canali, 500 milliwatt di potenza, l'antenna doveva essere incorporata e non estraibile, era telescopica e di solito puntava, non so se per regolamento o per vezzo, di colore arancione, e avevano i canali tutti scombinati, avevano i canali con, non col 5 finale, avevano tipo lo 0 finale, l'1 finale più altri decimali, e nonostante ciò i giapponesi con quei baracchini, proprio baracchini, facevano IDX con mezzo watt con la propagazione. Ehi, con la propagazione, perché se non c'è propagazione da qui a lì no, non arrivi con 500 milliwatt. Sì, ma adesso se per dire c'è molto inquinamento nell'aria, capito? E quello è il problema, perché se no prima era molto più pulito, io col portatile arrivava dal ghetto. Prima sì, ma adesso c'è molto inquinamento elettromagnetico ed è per quello che non è troppo disturbata la frequenza. Naturalmente contate una cosa, loro facevano DX all'interno del Giappone stesso, perché con quella canalizzazione assurda, con quelle potenze minime, non è che potevi fare nemmeno collegamenti internazionali. Poi lì dice che erano vietatissimo a livello di, c'è una cosa folle, pene draconiane, così hanno detto, Vabbè, più tardi vi mando qualche foto di quei baracchini. Ed erano anche marcati Sony, Aiva, lo sapete, roba, sembravano un misto tra un autoradio e un ricetrasmettitore. Belle a vedersi, belle, la qualità è eccezionale anche con i componenti. Per forza le costruivano loro. Cazzo, sentite la musica, panettone. Se tu vieni qua ti metti le mani in testa, cazzo di me, ed è basso, ma vai a 2 addirittura. Quando parlo da lontano io si sente più la radio, la radio bassa bassa, a volume bassissimo, eppure l'amplifica, maledetto. Ma tu la capsula devi cambiare. E qui non so più cosa ci avevo messo dentro. Comunque ho messo lo smalto delle donne in quelle due BTV. adesso già è bello fermo. L'accelerazione, ma va, non si muove più. Te l'ho detto, a me mi l'aveva segnato il signor Luciano, il padrone di Marta, nella buona anima di signor Luciano. E mi ha detto, tu devi fare così, quando devi stringere dei bulloni che non vuoi che non si mollino, li metti un po' di smalto e non si mollano con la. Sì, perché fa da blocca a filetto. Sull'attacco scappa. Loro queste tecniche già le conoscono, perché bulloni le tratta la gogo. Sì, infatti, io gli ho fatto la stessa cosa. Stamattina mi sono messo, l'ho aperto e gliel'ho passato in tutte e due le viti, perché è tenuto da due viti. Cucù. Oh, wow. Sono sempre io, no? Vabbè, poi vabbè, i giapponesi, a parte quegli apparecchi di CB, chiamiamo la banda CB, avevano apparecchi sempre a uso così, come noi, sui 900 MHz, 5 watt, omologati, antenna da macchina, erano veicolari, ma li mettevi in casa anche, o antenna base, 900 MHz, era l'anno 83-84, la Intec ha provato a importarli, si chiamava Superstar staccato, no? Però era roba che poi, come sono arrivati i cellulari, non potevi nemmeno usare, ma non ce l'aveva nessuno qua da noi, forse qualche impresa li aveva presi per forse, comunque al catalogo Intec c'erano, e una banda sui 900 MHz lo usava anche la Svizzera e l'Inghilterra con sicurezza, però era un po' diversa da quella giapponese, sempre però omologati, è tutto legale, cioè potevi usarlo in macchina o in casa con antenna o veicolare, però immaginati tu sui 900 MHz che casino, cioè onde ultra corte, bastava una collina e non sentivi più niente. Ma pagava anche la concessione? Beh, oddio, presumo che pagassero la concessione, adesso io non ho letto bene i regolamenti, se era di libero uso o con comunque un contributo, quello non lo so. Ma tu devi vedere quelli giapponesi sui 900 MHz, per l'epoca avevano la scansione, la chiamata selettiva, il canale di controllo, roba da fantascienza. Vabbè, il Giappone, e noi eravamo nelle caverne ancora, con i baracchini, ci avevamo in quegli anni, sai cosa, l'M340 Intec, l'FM680, roba orribile, che aveva volume e squelce, poi non aveva nulla. All'Intec già andavano bene come apparecchio, io ho avuto diversi Intec, il 430, ho avuto l'FM500S che me l'avevano rubato dalla macchina, ne ho avuto diversi là. Buonasera, chi è entrato? Sì, già, io anch'io, allora l'ho avuto il 500S, il 548SX, però io li trattavo per quello che erano, cioè rispetto ai Superstar erano cacca, io li consideravo proprio cacca, come modulazione, come ricezione, come dotazione, come tutto, cioè erano proprio omologati giusto da tenere per avere la concessione, però per il resto usavo Superstar e altre cose. A parte, chi è entrato? Buonasera. Ciao Marco. Buonasera Gianni, mi pare c'è anche Natalino, se lo vuole errando, dai. Ciao Franco, buonasera. Ciao Franco, buon Natalino. Ciao Franco. Ma mi ascoltate bene? Sì. Sì, io sì. No, perché mi stavo sistemando il filo del microfono, mi si è attaccato un filo e non stavo uscendo. Anzi, un po' cupo ti sento, un po' cupo, poi non so se dipende da magari stai parlando troppo attaccato al microfono. No, sono a distanza dal microfono, sono a, posso dire, mezzo metro, dai. Cosa sei, col cappa? Cappa. Allora la tecnica sua quella. Sì, sto usando il cappa, l'MC60. Ehi. Quello che devi dare a me. Diglielo, te arrabbiaggiuddu, ah, Gianni. Come sta arrivando Marco, la te di segnale, buono? Sì, praticamente è prossimo al 9.30, una modulazione buona. Cappa, andare. Riprendi Natalino, so. Sì, a suoi nove, ia. I pezzi del vagende. Sì, mi sto parlando con quel cuocuomane di Marco, che ce l'ha sempre con me. Se la piglia sempre con me, quello non sa con chi pigliarsela e se la piglia con me. Mi ha detto che mi hanno tagliato il pisello, mi ha detto, quando sono nato. Ah, vero. Ero sbagliato con il bisturi. Credevano fosse il cordone ombelicale, hanno tagliato, però Natalino ha detto che gli è rimasto un bel pezzo, ci può fare anche un gomitolo. Che tipo salsiccia sarda, se ti serve qualcosa per poppa. Sei mattagionata, cazzo. Un nome è una garanzia. Soddisfatti o rimborsati? Io penso che Marco rimanga soddisfatto. Ma io, guarda che sono abituato all'asino della cucca mia, e tutto quello al di sotto di quel livello è niente. E allora devo accontentare dell'aino di la cucca. Se vuoi ti do un passaggio in macchina, ti porto lì, così se c'è il raffreddore, anche il raffreddore ti passa. È per quello che io non ho mai influenze, non ho mai raffreddore, io ho la cura, e poi me l'ha consigliato Natalino, a dire il vero, l'asino della cucca. Perché io pure faccio così, se no mi viene l'influenza. Vabbè, comunque a parte gli scherzi, io già sono stato sempre refrattario alle influenze, raramente mi ha beccato qualche influenza, e quando veniva sì mi dava una febbriciata da 37,5 e poi il giorno dopo nulla. E così il Covid, io ho mai avuto il Covid, e poi lo sai, stavo sempre a toccare, ti ho detto, in dita negli occhi, nel naso, nelle orecchie, cioè toccavo i soldi, toccavo gli occhi, toccavo il naso, cioè. Eppure niente, probabilmente è come l'influenza, a me non mi fa niente. È vero, tu sì che sei fortunato, io ho fatto 3 vaccini, il vaccino anti-influenzale, eppure me la son beccato, e mi è durato pure un mese, Marasucci, un mese chiuso in prigione. Oh, chiudo all'istante, devo fare una commissione. Restate in radio per dopo, ciao. Ciao. Hai battuto i vaccini, Natalia ti ha pigliato un matessi, capito? Infatti, non capisco perché me li ho fatti questi 3 vaccini, più quello anti-influenzale, burghisa mi ho fatto, che me l'ha fatto la dottoressa mia. Cazzo. E da poi mi piglio il Covid, un mese mi è durato, sono andato in prigione, cazzo. Allucinante, riprende Gianni. Tu non ne hai fatto, fatto. Tre. Anche io tre, il quarto non l'ho fatto. Ho detto basta. Ci sono troppa gente che è morta, gente che stava male. E io da quando ho fatto quel vaccino mi sento sempre stanco. E mi fanno male le ossa, buca. Non avevo mai sofferto di dolori alle ossa, ma sono stucato truccato. La mattina quando mi alzo, zic, trac, sembra che stia schiacciando i gusci delle uova. I dolori alle ossa ce li ho anche io. E deve essere da chi su vaccino, brutto. Sono sempre stracco. Boh. È proprio vero, è il vaccino che ci ha ridotto così. Vedi, quel vaccino, La quarta dose è ancora peggio, Ma chi su Yassira Magna niente la quarta dose? Io non ne posso più vaccini. Di nessun tipo. Per carità. Una mia ex ragazza è morta, ci ha fatto il vaccino, dopo 2 giorni è morta così. Il vaccino, un po' di gente c'è, addirittura gente stanca, mal di ossa, catta, non è più voglia fare niente, è una cosa incredibile qua. E a Luca Flipper cosa gli ha fatto? Fatelo raccontare. A mio fratello c'è qua un occhio, Angelo, ma il vaccino, gente morendo giovana, capito? Ed è proprio da chi? Sì, sì, quel vaccino ha rovinato un po' di gente. E i Novax, lui prima li condannavamo, invece avevano ragione, Vittorio, un po' di gente non ne ha fatto e sta meglio. Ma infatti, mettere sempre queste cose, questi medicinali nel nostro corpo che non è abituato, è sempre una cosa negativa, c'è poco da fare. Sono colpi estranei. Lui, quanta gente vive non sta bene da queste cose qua, guarda, allucinate proprio. Perché c'è, dipende da persona a persona, ma il 99% sono tutti così, Tutti quelli che chiedi hanno questi problemi, capito? Vai Natalia. Allora, sempre mal di schiena sono io, mai sofferto di mal di schiena, e tu come? Già, sono disgraziato, ma strigosi, figurati come sono io. cazzo, molte volte da seduto, che ho anche la sedia comoda io. Beh, mini vu giù e mi gocca, che non posso già. Né pusarde né cucardo. Figurati. Ehi, a me me lo fa la mattina presto. La mattina presto vengono i dolori, qui. Come mette in movimento mi passa. Non dico che mi passano del tutto, però si alleviano molto. Coglioni, per carità. Sì, mi sto mettendo il busto io per stare dritto, perché non posso stare dritto. Qualche temporale, ma sa di pa cucina, ma giudoni sa rasa rigida, tipo busto e mi. Ma quella che c'ha Bruno, uguale a quella, eh. Sì, tipo così, Certo, via. Per carità. No, io ci sono gli ordini, che sto bene, mi so di chi va di fare la fine. Non lo so. Ma io ce li ho sempre continui. Quando io mi lamento che ti dico, cazzo Franco, mi fa zemari la china, e a chi mi raggio sempre visto il dolore. Non posso pigliare antidolorifici per la storia della cosa, della cardioaspirina, perché non mi fanno effetto, capito? Sì, quando è così è un casino. No, io ieri mi ho preso l'occhio, non ve lo faccio più, mi bruciava il piede come se mettessero fuoco sopra, non nella pianta, ma sotto. Mi bruciava come se avessi il fuoco di Sant'Antonio. Io non ne posso prendere antidolorifici, solo tachipirina. E cosa ti fai da tachipirina? Niente. Non è che sia un antidolorifico la tachipirina, per altre cose. La prendono, ma non è proprio antidolorifico specifico. Infatti, sono sempre con questo dolore alla schiena io. E non posso pigliare nessun antidolorifico. Certo. Da Busso Arredamenti è arrivato. Allora, per farti passare allora la schiena, te lo dico io, il tipo di ginnastica che devi fare. Ti devi mettere a quattro zampe, come il cane, inginocchiato, con le mani davanti, e trovare il centro dove non ti fa male. E muovere in avanti e indietro dove trovi il centro, poi ti abbassi con le braccia di davanti, ti abbassi quasi a toccare con la faccia in testa. E poi lo rifai, lo fai per un po' di volte, vedrai che ti passa. Devo fare ginnastica la mattina, non c'è niente da fare, no? Cosa fra? Ho detto che bisogna fare ginnastica quando ti alzi, sennò sei tutto bloccato. Allora fa un po' di allenamento e poi va bene. E vai da me, facendo ginnastica sono riuscito a riprendermi al 100% con la gamba, sennò se non avevo fatto ginnastica, io conosco un signore, si è operato al ginocchio, cazzo, non faceva la ginnastica, è rimasto il zoppo. Sì, deve mettere in movimento i muscoli, se no è un problema, tutto lì. Paga. No, io grazie a Dio, facendo la ginnastica, guardando su internet, no, mi mettevo a pagare il fisioterapista a 40 euro a seduta e devo fare 3 sedute alla settimana almeno. Certo. Bebo. Vai Natale. Sì, ci ha fatto qualcuno che ha fatto i massaggi, ma mi ha fatto massaggiare la china che so capezzi. Yes. Se fossi stata una bella femminuccia te l'avrei fatta io. Sì, una che massaggia bene già la conosco, ma ragazzi, non mi ridomando che cazzo. Se lo vuoi domandare, gli sei benvenuta di Mari, Sì, vabbè. Una massaggiata, cosa vuoi che sia? Perché non lo porti da quel guaritore che c'è in quel paese dove c'è andata la tavola? E se vuoi glielo posso dire? Se vuoi glielo posso dire, ho detto. Non capisco nulla. Ho detto se vuoi glielo posso dire. Diglielo se vuole andare. Vai Natali. Vabbè dai, adesso me la chiudo che in Dio bisogna fare frutta e cagadria, non posso, ciao. Deve stare sempre seduto, è un casino. Ma non ti interessa Natali, ti stavo dicendo che c'è uno che fa dei massaggi e ti fa passare i dolori, Io già non ho andato nessuno, qua. Ormai ne ho le scatole piene di tutto e di tutti. Grazie. cazzo, da un ipidale all'altro, Zogu, mi sto rompendo le balle, in poche parole. Ma questo qui non vuole soldi, niente, è una persona che lo fa per opera di bene. Vabbè dai, ci sentiamo un altro momento che me ne devo alzare per forza da qui. Vabbè, ciao Natali. Va bene, avanti. Ciao Natali, dai, buon QRT e buon tutto. Rilassati un po' e tieniti la schiena un po' in riposo, perché stare seduto è ancora peggio. Ci sono degli esercizi da fare, fra. Io guardo molto internet, quindi ho visto gli esercizi che si fanno per i dolori di schiena, per i dolori delle ginocchia, e ti dicono tutti i fisioterapisti, ti dicono cosa devi fare, capito? Per i dolori alla schiena ti metti su quattro zampe come il cane, dai, inginocchiato e con le mani davanti, trovi il centro dove tu muovi la schiena, dove non ti fa male. Ti blocchi lì e cominci a fare ginnastica, ti abbassi e arrivi quasi fino a terra con la faccia, poi risali. E basta che ne fai 10 al giorno, 10 minuti al giorno e ti passa. Se no ti prendi la cinesina, ti passa lo stesso. Ah, proprio cinesina, no, ciao. Ma bella biondona, magari polacca, bambina. Ma loro non sono esperti di massaggi, quindi te la boccio. Ciao Gianni, ciao Franco. Ciao Tino, buonasera, ben entrato. Ma poi loro fanno massaggio con regalino. Con regalino, allora. Poi ti passano i due e ti fanno spompare. A me qualcosa ti passa. E allora. Giusto così, due chiacchiere sul 12 al volo con Germania e quant'altro, quando non ti capisci non è che puoi dire più di tanto. A me mi sa tanto che il problema di acciaio attivista. C'è molta propagazione in giro, no? Sì, abbastanza. Ma 12 banda laterale, 5-5-5? No. In FM. Lì ci sono sempre, anche sul 9 va. Ci sono sempre i tedeschi, usano molto l'FM i tedeschi, dai, me non usano nemmeno. Ma vabbè, dipende. L'altro giorno stavo parlando lo stesso con Sicilia, Palermo, ma dove vinti, cioè arrivo una schioppettata. Se c'è propagazione arrivano bene. Io ho fatto qualche uno a non come gli acriani, l'acriani in questo periodo le facevo un bel. Vabbè, non è più vogliamo. Infatti a me mi va di farvi quattro chiacchiere così. Vabbè, se entrano li rispondo, e non è che non li rispondo come fanno circa. Io li rispondo e ma non vado a cercarli. Franco, avanti. C'ho il caffè un attimo nel fuoco, vado a controllarlo. Andà bene. Eccomi qua, sono qua, stavo accordando. Sentiva blu, guarda il sentore. No, vabbè, io lo faccio spesso quando cambio canale. Fai bene. Ma io ce l'ho sempre, lo smetto, ce l'ho sempre attaccato. Do un'occhiata, lo sguardo e vedo quanto sto, come sto uscendo. Sì, andare. Ma come va l'altro, perché avevo l'amplificatore attaccato, qua non ce n'è, quindi va bene così com'è. Gaffa. Ma è attaccato per fare 10? Diciamo che mi ero sempre attaccato con lui. È sempre in stand by, quindi quando schiaccio la portante va in automatico. Capito. No, io ce l'ho sempre spento. No, vabbè, questa è un'altra radio, un'altra tipologia di... questa è l'HF. Io capito. Senti questa telefonata, la senti. Sì, è anche alto. Vieni. chiami a Torino. Hello Morelli. Ciao a Torino. Ciao Tony, ciao. Ciao Tiro, ciao Gianni. Cazzo, gli avrò, aspetta che abbassa. Troppo un po' di cazzo, eh. Aspetta che abbassato. Ma è assordato. No, vabbè, perché poi diventa anche incomprensibile, non per altro. Sì, sì, è troppo forte, devo dire anche, non si riescono a capire le parole. È bella quando è alta la radio, ma deve essere comprensibile. Se poi è misciarda, non va bene, non va bene. Va bene, vai avanti, Tony, dai. Ciao, ti comunque. Dai, così va bene come radio. Amplificata, chiara e limpida. Ma a me è tutto bello e regolare. Non ho... Ognuno esce come vuole. No, ho visto, ho abbassato un messilo. Se aumento è così, capito? Ho abbassato così, va bene. Detto in sassanese, un bea bea tusa. Sì, Tony, io ti dico come ti sento, poi se te lo vuoi lasciare come vuoi non c'è problema. Beh, se ho preso un Ferrari, non mi piace camminare a 20. Sì, hai preso un Ferrari ma devo attonare, hai capito? Quindi lascia perdere. No, no, a me mi piace quando è ben amplificata. Quando vuoi fare qualche DX, almeno ti lontano ti sento, raga. Vabbè, ma va, non sei lontano, sei vicino. Dobbiamo passare un po' di più, secondo me, Tony. E tu ci hai leccato. Lecca. Io mi ho tolto. No, si sente. E adesso guarda. Un po' ce l'hai sempre. Sì, ma un po' va bene. Che lo c'ha troppo alto. E allora, come siete in casa? Oggi che è domenica. Io mi ho giocato un culo, anzo raga. Ho fatto una bella pulizia sotto la veranda, c'era un casino di roba, trappolisti, loro scatole. Niente, alla fin fine ho trovato la scatola del baracchino che ho dato a coso, Emanuele. L'ho chiamato, lo vuoi la scatola, quello che ho trovato? E me l'ho venduto. E vabbè, allora forse a pezzi era buttato via. Insomma, in fin dei conti ho riempito di quelle buste proprio 110 alte. 4 di quelle e uno della spazzatura. Fatti lo gonfio. Oh yeah. L'hai presa così oggi, là. Vabbè, già c'era una bella giornata oggi. No, io sono uscito ieri notte, quindi mi sono riposato un po' oggi. E tutti? No, io ieri, tutto riposo oggi, a parte che stavo lavorando a tempio, quindi ho fatto una settimana di chilometri e di ore piccole, quindi ho preferito un po' di sun bike. Ho capito, vi siete riposati, voi ti ho fatto bene. Niente, io un po' ho riposato un'oretta o di più, poi mi sono alzato e però io così sono sulla veranda, mi piace vederlo, troppo disordine. Mi sono capettato il rotolone delle buste via e piano piano me l'ho messo già in macchina, più tardi vado e le butto via. Non potevo avere la roba mucchiata così, era troppo disordinato, adesso si capisce qualcosa. Ho quelle 5 sedie in ferro che se le vuole con la medicina a fianco, se non se le lampo. Io una volta avevo già tutte fatte bene quelle levigate, verniciate, ma poi le hanno abbandonate, le hanno lasciate qui, o rimuti, o se le lampo. A me mi danno fastidio, a te già non ti servono. Cosa, Tonito? 5 sedie in ferro. No, non mi serve. Le metti in terrazzo, così quando si fa festa le fai sedere, sì, lì ti fai mangiare la pizza. Ah no, va bene, tutto ordinato bene, non voglio altra roba, non li voglio imbarrarti io. No, è tutto eliminato gli imbarazzi, non c'è più niente adesso, guarda. Il grosso l'ho tutto tolto, basta, finito, ogni adesso la prossima volta quando compro qualcosa c'è la scatola, la faccio in mille pezzi e poi la butto via. Non sto lì a appoggiare, visto cosa è successo. Un casino di roba. Basta. Infatti, tanto accumulare roba non vale a nulla, se non ti serve, se è roba che ci devi buttare via è meglio che la butti ogni volta che non ti serve, ti darà anche cosa sei arrimonito. La propagazione? Sì, c'è un po' di propagazione tu. NFM? Sì. Achtung, Kartoffeln, Telefunken, Volkswagen. NFM già. Ehi, sono qua. Stavo ascoltando da una radio all'altra per vedere un pochino dove ho dovuto mettere dei filtri per per sentirti più chiaro, vai. Avevo acceso un altro parecchino, sta venendo. Comunque adesso, meglio mi senti, guarda, te lo passo ancora di più. Più basso di questo, dico. No, lo puoi aumentare adesso, adesso sei troppo basso, entra appena appena. Guarda, un po' così va bene. No, devi fare un passaggio 1, 2, 3, da 0 a salire, poi ti dico, secondo me come è meglio, poi mi tiro come vuoi. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, secondo me a 3 va bene, perché poi aumenti anche il rumore dell'alternata. Quindi dovrebbe essere così, giusto? Hai ancora il rumore dell'alternata, ma quello fa parte della radio però. Mettilo a 3 che andava bene, non distorcevi ed era più regolare la radio. Così dovrebbe essere buono. Ma così mi sembra ancora troppo alta comunque. Adesso che forse che poi l'attacco dopo che la controllo che la prima. No vabbè, già io ho dovuto mettere dei filtri per ascoltarlo bene, perché a te ti sentivo bene ma lui no. E io ho dovuto abbassare il volume al minimo, cazzo. Ci dovremmo regolare noi, vai. No vabbè, ognuno usa la radio come preferisce, lo accentra, poi non so, è una scelta. Sì, quello sì, ognuno di questi faccio per voi. Però secondo me se lui la abbassa non si sente il rumore dell'alternata e in più si riescono a capire bene le parole, capito? Perché quando è troppo alta io perlomeno non riesco a capire certe volte. Mi il microfono normale, mi? No, quello se lo puoi buttare nel comodo, Tony. Anche io l'ho evitato, per carità. Ah va, fatto come ti risulti, che ho troppo nulla. Allora, quel microfono lì, Tony, io lo utilizzo quando va in banda laterale, che va in SSB. Allora, è un microfono che va molto meglio, ma se tu riesci a regolare la radio, come si suol dire, qualità prezzo, la puoi utilizzare anche con l'MC60. Aspetta, sto provando un altro microfono, aspetta. Dimmi un po', così come mi ascolti. Allora, questo è la salotto. Quindi questa qua è ultima, diciamo. Aspetta. Hola, ecco. Com'è? Così va bene, secondo me. Quindi così va bene. Così è bella, amplificata e si sente bene ciò che dici, è chiara. Questo microfono MB più 4. Vedi, se c'è la copiata giusta va bene. Io per dire, con un'altra radio sto usando questo qua del 60, ma la radio non è la sua. Io sto usando sul Galaxy praticamente. L'altro era lo Shure, ma lo Shure è un microfono, lo sappiamo, dai. Andare. Ma guarda, vi devo mollare, dai, devo uscire. Ne approfitto ora che ormai che a salutarvi. Ok, vai Tony, ci sentiamo. Ok, ciao Tino, stai bene, buona uscita, alla prossima, avanti già. Ciao Tino, ci sentiamo, dai, buona uscita. Oh, yeah. Progaridale. E fra poco devo uscire anche io, che devo portare il cane, no, ma ancora, avanti, fra un po'. Io dopo devo uscire a buttare la spazzatura, che 4-5 sacchi, ma è tutta roba di ferro? No, tutta roba di polistirolo, cartone, capito? Ah, allora, già roba leggera, dai. Sì, poi ho una batteria che è di macchina, è un sacchetto di 25 kg di intonaco che ha preso aria, non serve più, è tutto di lavarla e pesa che remuccio. Quello la butto tutto da parte. Ah, quello lì vuole portare all'ecocentro. Che azienda che ti manda all'ecocentro. Tutto il canotto si rappa remuccio e buonanotte. Che se ti trovano è un casino. Ma sai che di notte c'erano i barracini girando a Porto Torre, su Plattamona, tutta quella zona lì, sono in lampeggiante e cose. Barracini controllando le roulotte. No, dove l'ho avuto io è possibile, devo venire con l'elicottero a trovarmi, a me è impossibile. avuto altamente posti lontani, io faccio anche qui 10-15 km, faccio anche la passeggiata, non mi frega niente. Niente, oggi sono andato alla mia ex a portare un po' di pasta e sono passato le mie muraglie, la consolità di Forza Tabacchino. Mi sono bloccato per buono buono più di mezz'ora, c'era la macchina pulizia in mezzo strada, ha bloccato questo extracomunitario marocchino, usa marocchino, senegalese, l'ha fatto nudo come mamma l'ha fatto, l'ha avuto la droga, l'ha arricciato, però è mai da me, non filmi col telefonino, non si preoccupi, non me ne frega niente, sto parlando con mia figlia che sono bloccato qui e basta. Quindi le macchine qui suonando, aspettate. E niente, ho perso tempo così, mezz'ora rampando in chivi, bacca ridaia. Cioè l'hanno spogliato nel mezzo alla strada. Eia, e la stessa faccia scende il pantalone, la maglietta, tutto. E il Virane ha avuto le botte, le cassette, tutto. E ne ha trovato la roba. Cappa, lui metadone, no, non è metadone questo. Questo è metadone. Ha chiamato la battuta, ne ha chiamato. E poi c'era un'altra pattuglia giù via La Marmora, via Francesco Fara, che ha fermato proprio Romini, il Mara Zulfierani. Anche loro, per posizione. E deve essere che c'è a piano zero. Quello che fanno giorni, dai, non è che lo fanno sempre. Fanno questo piano zero che si chiama piano zero e perquisiscono tutti. Tutti quelli, vabbè, che spacciano e fa. E vabbè, pazienza, dai, comunque, è andata piano piano. Sono un po' di musica, nel frattempo che documenti, niente che dà, cresce, che scende i pantaloni. Tutto l'ho controllato. Cioè, mai fatti fare a pulire le mutande. Davanti a tua figlia, una bella cosa, la poteva portare in casa a me per acquisirlo lì. Non c'era mia figlia con me a casa sua, io ero in macchina, stavo andando da lei, ero solo in macchina io già. Ah, io ho capito che c'era tua figlia. E poi se lui filmi, tu li puoi filmare, l'interessante è che non divulghi, puoi filmarli se vuoi filmarli, quello non te lo possono impedire. Non la capisci che poi... dovesse succedere che vedo qualcosa, pigliano il numero di targa, dimmi chi c'era, ma che non voglio passare qua io, il telefono in tasca e boom, mancano giù il quarto, ho telefonato a mia figlia, boh, trovare tarda poco che c'è questo problema, boh, ciao, dopo, ho chiuso, boh, dice non filmi, no, sto parlando al telefono, se l'ho visto, no, non devo filmare niente io. Ma è arrivato bene, troppa niente per i taglietti, troppa roffa che viene droga e cosa, un sasso di vicio è fatto così, ma... ma è tutto pieno, ne arrestano uno e ce ne sono altri 50 a casa. Poi li liberano dopo pochi giorni, cosa li fate? Non li fate niente. Perché io avrei condannato i giudici, la politica, che ce l'avevi bombardati, a me mi ero bloccato un mese su Facebook, te l'avrei bruciati, avevi ragione Bussi, bombardateli, invece no, visto il casino, mica se continua questo passo già, tra poco comandano loro qua a me. Ah no, sono già prepotenti, si girano contro le forze dell'ordine pure, sono già prepotenti, hanno una prepotenza specialmente quei nigeriani, io perché ti ho detto lì non mi piace venire, perché c'è questa gente qua e non mi piace di queste persone. Già mi sono attaccato con uno una volta. Quindi faccio bene che io abito qua. Almeno sei isolato, dai. Se c'avevo degli amici che abitavano lì, che se ne avevano i pantaloni li rubavano, se ne sono dovuti scappare. Non poteva stendere nemmeno la moglie, scendevano le magliette, i pantaloni, che i pantaloni libri se li hanno rubato, nuovi nuovi. Avanti Brecco. Buonasera a tutti Marco, in trasferta, Pancali, paramobile, come mi ascoltate? Santiago 95, Radio 5, Marco, ciao, ben sentito, zona bancale, avanti Gianni. Ciao Marco, dove stai andando? Fatti arrestare. Alle carceri sei andato. No, no, Pancali, all'altra casa. Ho già il segnale, guarda bene il segnale com'è. Il segnale è questo, glielo sai che è secco. Ma, grosso modo, guarda. 695 là, più o meno 95. Quindi è come sopra, che qua. Sì, io lo so perché sono due segnali in meno che dà. Sei basso di radio però, Marco, no, di radio non mi piace. No, Natalino se n'è andato. Marco, come mi ascolti così? Allora, modulazione. 1, 2, 3, prova di modulazione, avanti Marco. Allora, questo sinistro sembrerebbe abbastanza stretto rispetto al controllo. Tu sei stanchiero 7. Facciamo 7 radio 5, prima piano. Prova, 1, 2, 3, 4, 5, 7. La radio è buona. Prima di... o meno. Così, guarda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 8, ma non faccio affidamento, questo è il sistema. Ehi, ehi, dai, dai. Ma che antenna stai usando, Marco? Allora, questa è la ML145, quella recente, della serie, proprio quella un po' lunga. Comunque c'è propagazione, è un po' disturbato a volte. Non ho capito nulla. Ho detto che c'è propagazione, Marco, ogni tanto ti copre. Si dovrebbe mettere un amplificato in macchina per sentirlo meglio. Ce li ha tutti conservati gli amplificati, se li ha ordinati poi non li usa. Dimmi se cambia già il segnale, guarda, rispetto a prima, lascio la porta aperta. Sì, sì, cambia, è molto più forte questo qua. Con questo qua sei 9.20, da. 9.15 a questa parte. 9.15, 9.20, da. Tu serio? Allora, ti spiego già. Questa è la Midland L145, è come quella che tu, molto ma molto simile, però la carica non è trasparente. E va meglio. L'altro è il clone della Telecom, si chiama Telecom ML145 e rende molto meglio. Questa antenna due marchi diverse, non comprate la Telecom ML145. Quello lì sarà per i telefoni, Marco, se ne sbagliato tu. Però la ricezione è uguale, mi sento tutte e due uguali. Vai, Vittorino. K, io ho messo il microfono l'altro. L'MZG, MP4, da tavolo. Dovrebbe essere meglio così, dai. La brochure è troppo forte, gà. Tony, io ti dico una cosa, esci meglio con questa. Ma no, la gavigiccia, ti ho capito al volo. No, esci meglio con questa, a parte gli scherzi. La radio è molto più chiara, più sei, più tu. L'altra è troppo forte, non si capiscono le parole a volo. Perché parlo veloce io. Insomma, qui con un'antenna sul tetto sarebbe un edilizio, vuol dire? Metti della tua zia l'antenna. E io gliela proposto, però dobbiamo lavorarci su, dai. Tanto non c'è che serva per l'emergenza, tocchiamo ce le basi. Ehi, vabbè, se ci sono anche i telefoni, ma comunque, quando venti puoi distrarre, almeno non stai a ascoltare le chiacchiere delle signore. Marco, sei a Bancali, giusto? Ehi, non è che senti qualche uno che sta affittando qualche casa un po' grandetta con un giardino che c'ha due cani? Così non so, dovrei chiedere qua in regia, chiede in regia, dopo faccio sapere. Ok, per adesso qui in prova già, va bene, e arrivo già ora che cosa. Ci sentiamo, a dopo. Ciao Marco, ciao, ci Marco. Sentiamo, buonasera. Avanti così. Ciao Marco, salutoni, ci sentiamo, fammi sapere. Tony, se vuoi ti faccio le registrazioni con un microfono e con l'altro, e poi tu vieni per due. Dai, già più o meno. Sì, tanto prima usavo anche questo, dai. Questo va bene, questo qua sei tu, sei come in verticale. La voce amplificata però è come in verticale, bella chiara, capito? Tanto è troppo burutosa, non si riescono a capire le parole a volte. Perché è troppo forte. Però lui volebbe solo al minimo volevi usato quel micro, tu lo buoni a manettone, è rubito. Oh, guarda che mi chiede a mettermi quando uso quello lì. È il microfono che è troppo forte, è la capsula che pompa forte. Lo so. Niente, se trovo di meglio me ne vado, perché ripeto, qua le ternite ci sono sempre, se piove è un casino. Non vuole fare questo, vuole fare quell'altro, ho speso 50 euro a comprare il trasmiscelatore per il BD e tutto quanto, poi c'è il tubo, a quanto pare è ostruito, acqua fredda non scende. E gli dico che retondo, lo chiamo, dico ascolta, io ogni volta che mi devo lavare mi devo bruciare le palle, basta. Che cazzo. C'è cercano a casa, me ne vado via e qua dai. Se stai a buttarsi soldi così, però è un casino. È meglio che ci abbi casa, ti faccia più una che è funzionante. Cappa, però ripeto, questo gli riscavo dall'affitto che ho speso, non ho capito. Non so come acqua. Vabbè. Finalmente due d'accordo, non sarà d'accordo sicuramente. Ma a me non mi ha fatto il comando, io lo comando a lui. Gianni con me non può dire niente, perché io ho il coltello a parte manico, già lo sai. Si dice lo scontrino, manodopera, poi dico che ha chiamato l'idrale, ho capito. Se io lo faccio io, dice fai sempre tu a Macco, dico no, i problemi in schiena io non ne faccio, chiamano sempre l'idrale, si dice scontrino, ma tanto proprio tu vai a parlare scontrino, e perché tu ricevuto le fai? Esecuta la zappa a piedi e non gli conviene. Vabbè. Comunque questo qui è bello, bello. Se vuoi te la registro, ti voglio far vedere che non è che lo sto dicendo io, ma che è così veramente. Ma tu non ce l'avevi lo stesso, un MB più 4? Sì, ce l'ho tuttora. E quindi? È uguale, tu lo stai usando adesso? No, questo qui non è l'MB più 4, questo qui è il 3009 col Midland amplificato. Ho capito, ma non lo usi mai quello da tavolo? Sì che lo uso, col Galaxy lo uso, cazzo se non l'altro giorno lo stavo usando. Con il Galaxy sposa bene, io con il Galaxy lo sto usando. Tutti gli attacchi, quei microfoni l'ho fatto al Galaxy. Sì, sì, va bene, l'avevi più 4 è un microfono che non è che puoi avere molte pretese, se non gli fai le modifiche non puoi avere molte pretese, però se lo modifichi, gli fai quelle piccole modifiche, va molto bene. E su propagazione 9-10. Ma in FM. Cappa. Io proviamo a andare. Io? Attenzione, canale 10, FM Gatto. Attung, attung. Attung, cartofa in telefono che Volkswagen. Una volta l'ho detto così, mi ha detto maccherone. Il cartofo, se smiccio, se scatta, gnigni. Oh, che mi sono fatto? Ho chiuso il braciere. E il barbecue che ho io, il fusto della lavatrice, con i tre piedi. Mi sono fatto un po' di pancetta arrostita, che è buona già. Cosa ti è fatto il braciere da Loblò? Ma gli ha fatto il piedi, gli ha fatto i piedi per sostenerlo e basta, e poi vuole la graviglia sopra. Allora, ce l'ho da molto, ce l'ho me. Hai visto quei tre cosi che ti mantiene il cestello? Quello ha fatto tre piedi praticamente girato, poi dei tubi saldati, poi salto al cestello ed è alto, più o meno arriva quasi alla mia pancia, giusto per mangiare. Ah sì, ho fatto... Ma l'aveva fatto un filante di quelli grandi con una tambullana e praticamente abbiamo messo due cric ai fianchi saldati che alzavano la graticola, la abbassavano, tu però dovevi essere in due perché lui li doveva mettere e comunicava un cric con l'altro, però li veniva male, doveva far passare in mezzo a la tabullana, quindi non è ammesso. E in due dovevi abbassare, per abbassare io vi abbassavo, voi giravi un bricco, quelli lì delle 500, quelli della Fiat Vicky, quei clic. Ma quando mai uno si mette a provare a fischiare in questo canale? Uno sta parlando. Sono i padroni, no? Manco il caso suo è il suo padrone, ma ripeto, non me ne ha fatto nulla, forse si va a rinviarsi, fin quando ti ascolto, se poi non ti ascolto più, io piglio il telefono, ti chiamo e faccio prima, e lo baracchino ce l'abbia a luci, e lui ci rimane male. E mai dopo frusciare canto rinviarsi, capito? Sono anche a minima potenza, aspetta, aumento così. Comunque penso che non mi disturba mai, dai. Ma disturbare a me deve essere qua in mezzo, perché se disturba a me che ti arrivo il più forte che ci sono, deve essere che... Vabbè che io sono con un baracchino che sta scendo con 3 watt, ma se ne può fare... No, la voce tua già la sentiva lo stesso già, però sentiva questo poi come tu hai mollato, ha fischiato e ha mollato tutto di colpo. Non è uno deve fare le prove così su un canale che uno sta parlando. Ma io mi auguro che non si sia reso conto che c'era gente. Ma penso di sì, perché non è continuato. Vabbè. È così Tonito. Questo qui va molto meglio il microfono. Magari l'altro vuole solo regolato, tu lo vedi troppo alto, tu dici che devi uscire come la Maserati, grazie, non puoi uscire con la C come la 500, ma se mai esci con la Maserati, grazie, ed è tutta smarmittata, cosa esci a fare? E fai sordo tutti quanti. No, il fattore è questo, io uso il microfono, cioè il volume del potenziometro, il volume del microfono a manetta, mentre il MacGyver lo metto a 3, a 4, non di più, capito? Perché se lo metto poi è un casino. Ma ecco, è lo stesso forte, Tonito, lo stanno dicendo tutti, non è che sto dicendo solo io, è lo stesso forte. Io se ti avessi scelto bene, amplificato bene e con la voce che si capiscono le parole, non ti avrei detto nulla, ma così è abbruttoso, capito? E mi ha detto anche Emanuele che mi ha sentito ieri, c'è un bel forte, un bel. Ma esce lo stesso forte, se tu lo metti al minimo quello lì, esce forte lo stesso, perché un microfono che c'ha una capsula di quelle ceramiche, di quelle buone, di quelle che escono furti, esce lo stesso bene, però vuole regolato bene, se tu lo metti al manettone, com'è che tu non hai nemmeno di Ducati, tu devi abbassare il microfono e buffi, ma che lo metti al massimo, il microfono lo metti al minimo, poi piano piano lo alzi e vedi a che punto ti puoi fermare, boh, va, fatti il gioco. Aspetta, adesso ho messo piano piano, sempre il detagista usando, adesso è a 7 del MacGyver, com'è? Che cosa stai usando? Non ho capito. Sempre MB più 4 a 7, quanto così è al massimo. No, ma questo qui va bene anche al massimo comunque, però l'ho sentito un attimo, l'ho sentito saturo, perché l'hai attaccato. No, ho provato a metterlo proprio a minimo il MacGyver, il volume. No, come stavi uscendo andavi benissimo, come stavi uscendo tu ne andavi bene, come era prima. Così è come prima già. E così va bene, così la tua voce è amplificata, però limpida, capito? Ok, non è forte come lo Shure giustamente, però già va bene, si sente, dai. No, ma c'è l'amplificazione, c'è, non è che non c'è, però è chiara, è quello, la differenza tra quello e lo Shure è che la modulazione tua è questa, è chiara, e l'altra non si capisce certe volte le parole, specialmente tu che parli in fretta, non si comprende nulla. Oh, io andavo bene a fare la pubblicità e boom. Tu non devi mettere a uno la voce, non devi mettere come si fa col telefono. Devo regolarmi l'ugola. Attention my friend, attention my friend, Italy from Sardinia. Mi ricordo Piero Drago. I come imbuto, B come banana. Di ex la puzza, ci sono tutti ridendo, ma lo fai apposta? Apposta sì. Non parliamo una volta a Walter De Bosi che si è messo a fare di ex questa tipa spagnola d'estate, l'ha fatto lo speak la sua stazione cazzo su Arritus e quella gliel'ha ripetuto tutti i ridendo. Luzzinoso Rovegliani, quelli sì che erano tempi, gatti, divertivi, molta gente però, tranquilla, dai. E vabbè, adesso non c'è più nessuno, tutti canti andando, so. E vabbè, nessuno non è vero, perché qualcuno c'è sempre, dai. E siamo arrivati in cosa, in superstiti. E cosa ho conosciuto via Saturno Salvatore, il fotografo? Sì, ve lo ricordo. Poi c'era Stefano Serra, Vento Giallo. Sì, Piazza Colonna Mariana, cioè, sì, ve lo ricordo. Era amico di Tore, di Ala Verde, stavano sempre lì a quell'edicola, sempre lì, vicino all'edicola. Sì, modulava anche la mamma di Stefano, entrava come Electra. Sì, me lo ricordo Electra, però non sapevo che era la mamma. Sì. E ci sono Romeo Beniamino Mura OM, entriamo qui dal baracchino. Ehi, lo so, Romeo adesso è OM, Romeo è sempre stato M da ragazzo, quando c'era il padre OM e poi anche lui. Andavo qualche volta a baracchino, c'erano quegli apparati enormi, proprio antichi, ma non si capiva nulla. Poi c'era Roberto S2 che era via Maddalena, era vicino a me, proprio abitava. Poi chissà che fine ha fatto. Io la stazione del padre l'avevo vista perché mi aveva fatto salire, perché ce l'aveva sui soffitta, e praticamente ci aveva gli apparati, mi ha detto che aveva i filamenti in argento. E comunque la stazione grossa c'aveva, vecchia a quei tempi, vabbè, io ti sto parlando già anni inizio 80, dai. E io avevo 19 anni, 20 anni quando l'ho visto. Io andavo a casa di Roma, era amico suo, quindi lo so, era camionista. E io poi Romero l'ho visto quando era postino a Milano, sono a Milano, l'avevo chiamato, dove sei? Lui a Milano, ce n'ho anch'io, ci siamo trovati, poi siamo andati a Marcucci insieme, vedere un po' di roba, capito? E non so più che fine ha fatto, non so il suo numero di telefono. Poi c'era anche Diego Caracchini che si è trasferito a Londra. Aveva il suo numero di telefono, parlava in inglese, poi parlava lui, eccetera, eccetera, poi automaticamente non trovo più il numero, è un numero talmente lungo e è sparito anche lui del tutto. Comunque è sempre a Londra. Allora Romeo un periodo si era trasferito, vabbè, era, lavorava lì alle poste e lavorava a Porto Torres e c'aveva la casa lì a Porto Torres, poi non so se da lì si sia trasferito, questo non lo so. Io l'ho conosciuto, io l'ho sentito di nuovo dopo non ci sentivamo qualche un anno, così due anni, capito? Poi per caso ci siamo sentiti, avevo il suo telefono, lui era a Milano, ci siamo trovati a Milano e poi non l'ho più sentito, sparito. E quindi, non so se dovrebbe essere in pensione comunque, perché gli anni se passò per me, passò anche per lui. Vabbè, a me mi aveva detto, io già ho vinto concorso alle poste, però mi vogliono mandare a Milano, cazzo, non so se andare, se non andare, ho la casa qua, tutto tanto, le tocca a Roma, non ti perdere. Ho una casa del genere, tu vai, poi ti trasferiranno di nuovo. Sì, non so se fare un anno o due anni, com'è una questione, poi chi il trasferimento, quello sì, lo so. Infatti, poi deve essere andata, perché se l'è trovato qui è andato lì a Milano. Poi non l'ho più trovato, perché viaggiava a Sassari prima, andava a Sassari, poi l'avevano trasferita a Porto Torres, faceva il postino a Porto Torres. Non lo so se adesso l'hanno trasferito oppure se sia ancora lì, non te lo so dire questo. Però io lo conosco da ragazzo, avevo 19-20 anni, se ce l'avevo pure, quando io frequentavo a lui, a Manuel, Antonello Manuel, Shadow 2 e tutti quelli lì. Io poi aspetta, c'era coso, Angelo Delfino, Giannella la moglie, li ho visti da poco a Bricocina. Ma è lui o non è lui? Cazzo, è un po' che è cambiato, è ingrassato pure. Io su Facebook ho trovato la mia prima ragazza di quando ero ragazzino, e siamo stati un anno insieme. Se non avessi detto il nome, il cognome di dov'era, tutto quanto, non l'avrei riconosciuta. È vicciata proprio, era così bella, aveva gli occhi verdi, i capelli biondi, tutta cambiata completamente. Vabbè, gli occhi ce l'avrà sempre verdi. Sì, quello sì, però non è più lì, non è più lì. Era di quelle ragazze che tu come la vedevi ti attirava subito. Non ti dico altro, era proprio bella. Adesso proprio, allora io avevo 19 anni, mi pare, e lei ne aveva 22. Niente, io da poco ho visto invece la cugina della mia ex, mi ha chiamato, siamo al bar, c'è anche Maddalena, che abita a Vicenza praticamente. Maddalena era lì, abita a Villa Gorizia, era la figlia del buon'anima di Matteo Tramonto, fratello di Barbarice di Piero Drago. ed è praticamente lui lì si è scappato di casa perché aveva lasciato il ragazzo che non gli piaceva, si è messo con il suo ex, il genitore non voleva, lei si è scappata, è andata fuori, era già maggiorenne, è andata fuori a Vicenza e si è sposata, ha fatto la fuitina Cappa, ed è anche vedova adesso, ma è tutto, sì, sempre lo stesso, non sei cambiato. Beh, io lo stesso, ti ho conosciuto in un modo e ti ho trovato in un modo, l'altro lo stesso uguale, non è che si ci abbandona, si è cambiato come fisionomia, non ti avevo riconosciuto la volta che ero con Luca, ti ricordi a quella festa al monte che ti avevamo trovato? Sì, al parco. Prego. Esatto, non ti avevo riconosciuto, Luca mi ha detto, mica Torino Cavaggia, che ma va. Non ti avevo riconosciuto, si è cambiato totalmente.